sans te preoccupare se il mondo va allo sfacelo. Tu non ti preoccupare, occupati del tuo tesoro. Non ti preoccupare se molti non hanno decoro. Quello che tu hai di dentro è un cielo immenso e vale più dell'oro. Perché tu sei la luce dei miei occhi, la mia rugiada, il mio castello di specchi. Perché tu sei ogni tramonto, ogni deserto di questo mondo. Perché tu sei l'angelo che cammina, balla la notte con la mia luna. Perché tu sei la mia innocenza, la mia costanza, la mia coscienza. Ci sono mille modi per arrivare alle sponde dell'Eden, ma la tua è la più bella stella. È cieco chi la condanna. Non ti preoccupare, ci sono sogni che si possono realizzare. Tu non ti preoccupare, la vita è un succo, tutto da bere. Perché tu sei la luce dei miei occhi, la mia rugiada, il mio castello di specchi. Perché tu sei ogni tramonto, ogni deserto di questo mondo. Perché tu sei l'angelo che cammina, balla la notte con la mia luna. Perché tu sei la mia innocenza, la mia costanza, la mia coscienza. Sotto le stelle risuonano le pelli dei tamburi, anche le cicale godono quando si spalancano i tuoi cieli. Abbiamo tutti momenti strani, ma abbiamo anche tanti fiori, tovaglie e tavole nella nostra mansarda. Abbiamo pentole, abbiamo speranza. Perché tu sei la luce dei miei occhi, la mia rugiada, il mio castello di specchi. Perché tu sei ogni tramonto, ogni deserto di questo mondo. Perché tu sei l'angelo che cammina, balla la notte con la mia luna. Perché tu sei la mia innocenza, la mia costanza, la mia coscienza. Perché tu sei la luce dei miei occhi, la mia rugiada, il mio castello di specchi. Perché tu sei ogni tramonto, ogni deserto di questo mondo. Perché tu sei l'angelo che cammina, balla la notte con la mia luna. Perché tu sei la mia innocenza, la mia costanza, la mia coscienza.